Un piccolo seme può dare molto frutto, se mani amorevoli se ne prendono cura. Ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Varghe-O-Macchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Varghe-O-Macchia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E buonasera a tutti quanti qui su www.runtimeradio.it. Non è giovedì ma è venerdì, quindi il giorno dopo della nostra solita trasmissione, ma è sempre qui su Runtime, ore 21:30 con Quando eravamo futuro. Io sono Simone Pizzi, come sicuramente già sapete, e con me i miei amici e compagni di viaggio, Carlo Sant'Agostino. Rutto fotonico! Ecco, è iniziato benissimo. Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti, ciao. Ciao, nel compensa, vedi, Roberto compensa. Davide Gatti. Buonasera. Allora, io nella mia piccola costipazione ci sono. Ok, allora, prima di iniziare vi ricordo che ovviamente potete interagire con noi su Telegram andando su Dirette Runtime, quindi telegram.me/Dirette Runtime, e se volete poi ci recuperate domani in podcast come tutte quante le settimane. Ringraziamo tutti i feedback positivi che stiamo ricevendo, sempre piano piano, sempre un po' di più, questo ci fa piacere. E soprattutto ricordiamo che è iniziato il podcast anche di Roberto Tomaiuolo, Delenda Cartago, di cui abbiamo fatto l'anteprima quando era domenica scorsa, se non sbaglio, forse potrei dire una boiata. Dildo Cartago? Delendo Cartago, perché levate il vino comunque. E ovviamente lo potete trovare già in podcast, insomma in diversi aggregatori, quasi tutti gli aggregatori. Sto aspettando ancora il feedback di iTunes, ma potrebbe essere già anche su iTunes. Se no, lo trovate ovviamente sui nostri programmi su Spreaker, e tranquillamente cercate Delenda Cartago, abbonatevi, cercate il feed e via dicendo. Mentre che invece siamo quasi per festeggiare un ennesimo traguardo del canale Survival Hacking di Davide, che giustamente continua. Ma tutte le settimane qua, cresce sto canale, cresce. Ogni tanto qualche colpo di posteriore, allora approfittiamo. Noi siamo contenti perché abbiamo un contratto non scritto del 15% di tutti gli introiti di Davide, quindi a sushi, però a sushi, a donazioni pure volè. Mentre di salmone. Mentre che Carlo Sant'Agostino e Davide Gatti hanno installato il 5G. Questa è una cosa importante per tutti coloro, sì, insomma, che vogliono sapere come stanno. Hanno installato il 5G, ce l'hanno adesso in modalità biologica e funziona benissimo. Detto questo, diciamo benissimo, non so se a me mi hanno iniettato droga o vaccino, non ho capito bene perché sono un po' così, però secondo me sono le salsicce con le quali hai festeggiato, quello sicuramente può essere. Esatto. Intanto salutiamo già Carlo Sant'Agostino che ci sta ascoltando in live. Ciao Carlo Sant'Agostino. Io invece no, a me l'iniezione mi ha fatto l'effetto tipico dei finali di Runtime de Notte. Esatto. Sai come dico io quando dico è finita la serata anche? Cioè quando sto con gli amici a un certo punto, regà, è finita la serata, cioè, devi andare al bagno. Sì, esatto, è la stessa cosa. Va bene ragazzi, questa è una puntata molto molto lunga, vorrei che sia Carlo in persona a raccontarcela, insomma, questa puntata. Sì, giusto? Sì, grazie. Grazie Simone. Prego, niente, prego. Questa è la puntata che in teoria, no, non in teoria, in pratica faccio io. Dovete scusarmi, stasera, come ho detto, il vaccino mi ha fatto uno strano effetto, non so, sono un po'. Ma secondo me pure le salsicce hanno fatto. Esatto. Salsicce, in realtà la verità è che ho fatto una settimana di cottura extra lavorativa. Le salsicce. Sì, sono arrivato fuso. Va bene, comunque la puntata di oggi cos'è? La puntata di oggi è dedicata a un tema particolare, che sono l'accompagnamento musicale sonoro della nostra infanzia e della nostra adolescenza. Cioè, come ho scritto anche, che la vita di ognuno di noi, no, è sempre contraddistinta da dei momenti che rimangono impressi nella nostra memoria a lungo termine, e molto spesso quando noi ricordiamo questi momenti li accompagniamo o sono ricordati, no? Sentiamo una musica e questa musica ci ricorda questo determinato momento. Questa è la colonna sonora, che può essere nei momenti una canzone qualsiasi, ma nel caso della puntata di oggi parleremo proprio delle colonne sonore o delle sigle che ci hanno accompagnato, soprattutto nel mio caso, questo lo dico al mio livello personale, però magari è una cosa che sentono anche gli altri, ma la mia cultura musicale, cioè il mio gusto della musica, stava più a spizzettoni, si è formato ascoltando le sigle dei programmi TV che guardavo da piccolo, i film che ho guardato, e per anni la richiesta dei dischi che mettevo nel mio mangiadischi da ragazzo, da piccolo, erano solo le sigle e le colonne sonore. Tutta la mia infanzia è stata ascoltare musica che era musica che arrivava da sigle e da colonne sonore di quello che guardavo, tranne in rarissimi casi. E la musica vera, cioè quella di comprare i dischi dei 45 giri di musica tradizionale, ho iniziato dopo i 15 anni, ma fino ai 15 anni era così. Cioè, per me era la musica, era le colonne sonore e le sigle. Beh, diciamo che la maggior parte dei nostri ricordi, fino a che non abbiamo sviluppato poi magari una consapevolezza, una cultura, sono legati a fattori strettamente sensoriali, quindi diciamo l'odore e l'udito sono elementi molto importanti da questo punto di vista, insomma. Quindi sì, chiaramente... assolutamente. Ma in caso specie quello che stavo tentando di dire è che in realtà non solo l'udito in generale, quindi la musica in generale, ma nel mio caso almeno la musica specifica che ho ascoltato nella mia infanzia, nella mia prima adolescenza, è stata solo musica che arrivava da sigle, da colonne sonore di film e sigle di cartoni animati e di telefilm. Quella era la mia musica, ok? Poi dopo è arrivata anche l'altra musica, ma la mia musica era quella. Certo. Comunque ho proposto di fare una puntata. All'inizio avevo proposto, facciamo una puntata sulle sigle, e apriti cielo. Non è possibile. E l'abbiamo insultato tutti. Giustamente Simone ha iniziato a insultarmi. Devi specializzare. Allora ho detto: specializziamo per modo di dire, diciamo, perché anche qui siamo nel mare magnum. Allora ho iniziato a dividere tra colonne sonore di film, sigle e colonne sonore di telefilm e di programmi TV, e sigle dei cartoni animati. Delle tre, quella che mi piace più a me è quella dei cartoni animati, ma appunto per questo iniziamo dai film. Non è vero, sono tutte e tre belle. Comunque si è deciso insieme di iniziare dalle colonne sonore cinematografiche. Quindi questa puntata di stasera sarà dedicata essenzialmente alle colonne sonore cinematografiche, quindi dei film che hanno accompagnato la nostra infanzia e la nostra adolescenza, quindi nel caso specifico degli anni 70 e 80. Beh sì, diciamo detto che la premessa dobbiamo farla, no? Giustamente. Perché sì, premessa è che ce ne dimenticheremo sicuramente tantissime, perché quindi non iniziate, no, avete detto questo, perché sono talmente tante che le abbiamo scelte, già sono troppe, chissà se ce la facciamo ascoltare tutte, e comunque ce ne siamo dimenticate centinaia di migliaia sicuramente. Sì, ma più che dimenticate, comunque abbiamo anche scremato, no? Cioè, nel senso, comunque alla fine abbiamo scremato un po', sicuramente ce le siamo scordate, quindi certo. Metti una, metti l'altra, salta fuori che sicuramente ci siamo dimenticati qualcosa. Ma come vorrei organizzare la puntata? Allora gli ho dato tua staccaterba di MP3 al buon Simone, che ovviamente mi ha ringraziato tantissimo di avergli dato questa caterba di MP3 che lui doveva normalizzare, no? Era molto contento. Vero che sei contento? No, no, sì, questa è la puntata che nessun regista vorrebbe mai fare, cioè questa è chiaramente... Esatto. Esattamente. Però l'idea è questa. Darò un senso più o meno cronologico, in realtà non tanto cronologico, tento di dargli un senso cronologico, ma in realtà ho legato un po' ho fatto dei raggruppamenti legati più all'artista e al compositore, no? Per parlare dell'artista e del compositore a riguardo di alcune colonne sonore di film famosi o in generale o di genere, insomma. E riguardo a questo, poi anche hanno messo le loro preferenze anche Davide e Roberto, ovviamente abbiamo indicato con degli asterischi, dei pallini, dei puntini, che quindi c'è tutta una serie di colonne sonore che ci hanno segnato più o meno, e ognuno di noi racconterà, Simone, io, Davide e Roberto, racconterà quello che gli ricorda, i ricordi legati e le sensazioni, cosa ci è piaciuto, eccetera, delle varie colonne sonore. Quindi io propongo di iniziare. Iniziamo, ragazzi? Iniziamo? Beh, sì. Tutto ok? Tutto a posto. Vai. Tutto a posto. Allora, iniziamo con un film western che per me è stato il mio western, cioè l'inizio dei... Cioè io ho iniziato da lì a vederli i western, cioè c'erano anche prima, ma erano più vecchi di me. Questo invece lo trovo molto contemporaneo a me, e poi... oltre a essere contemporaneo introduce poi tutta una serie di cose che andremo a approfondire, ma soprattutto l'ho visto talmente tante volte che lo so a memoria, a memoria, come penso tanti di voi. Quindi inizierei, Simone, con il primo che ho messo in lista, che dovrebbero riconoscerlo tutti. Sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind. Siamo di subito due cose su questo brano. Bravo. Su questo brano diciamo subito due cose. Uno, che è uno di quei brani che, come dici te, associ mnemonicamente e quindi ti viene il sorriso già soltanto a pensarci. E poi è forse solo l'intro dura quasi un terzo della canzone. Vabbè, questa accomuna molte se colonne sonore di questa. Però ecco, facciamo così, Simone, lo dico adesso, decidi tu quando entrare, giusto, sì, perché sì, così sì, fini sì. Il timing. Esatto. Ma anche perché poi mentre che magari parliamo della cosa specifica, magari un attimo ce lo teniamo sotto e comunque ci accompagnano in qualche maniera, insomma. Esatto. Vabbè, due cose veloci e poi passo la parola agli altri, cosa si ricordano. Comunque questa è la colonna sonora ovviamente di Trinità, il primo film che ha lanciato Bud Spencer e Terence Hill. All'epoca erano sconosciuti quando è uscito questo, praticamente sconosciuti, avevano fatto qualcosa come si sa, ma non erano attori famosi. La canzone è scritta da Franco Michalizzi, un grande anche lui musicista italiano che ha fatto un sacco di canzoni di colonne sonore, e il fischio, in particolare il fischio famosissimo, è eseguito da un grandissimo Alessandro Alessandroni, che è praticamente quello che veniva chiamato il fischio, cioè lui ha fatto tutti i fischi delle canzoni più famose, questo fischio polifonico che si sente all'inizio. Che lavoro bellissimo. Fai? Faccio il fischista. Faccio il fischio, esatto. No, veniva chiamato il fischio, non mi ricordo che regista l'aveva detto, lo chiamava il fischio perché era quello che faceva il fischio nelle musiche dei western praticamente. Una cosa da dire è che questa canzone qua, questa colonna sonora, fu usata anche nel 2012 da Quentin Tarantino nel film Django Unchained, che venne riproposto questo tema nella scena finale poco prima dei titoli di coda. E non è un caso il fatto che l'abbia usato Tarantino, no, che è un lover scatenato proprio di una tipologia specifica di cinema italiano, insomma. E non so chi vuole dire qualcosa a riguardo. Ovviamente, vabbè, su questo film qua che avrò visto tante volte, ma sicuramente continuo a vedere continuamente ogni giorno. Non so quante volte la scena degli schiaffoni al bar, quella, la sua memoria schiaffone per schiaffone, giro di pistola. Quello, guarda, vabbè, ma i fagioli, ragazzi, la cosa, cioè, fagioli, la storica cosa dei fagioli, che poi è proprio quella scena lì che secondo me rimarrà memorabile. E in qualche maniera ogni tanto vado su YouTube e me la riguardo quando non c'hai il film sotto mano, no? Ti riguardi comunque almeno quella scena. E devo dire che Terence Hill c'ha una faccia da schiaffi, ragazzi. Secondo me lui era un dotato, era destinato a fare quello comunque. Cioè, sì, era il topos, ma anche Bud Spencer, assolutamente. È uno di quei casi dove sono gli attori che scelgono, che il film sceglie gli attori e viceversa, e nasce tutto perfetto in quel caso. Gianluca Mattei in chat ci dice che il film è stato girato sul Gran Sasso. Sì, in Italia, sì, è probabile. Ci sono alcune zone, una volta mi faccio un attimo una ricerca, perché ci sono alcune location in Italia, nel centro Italia in particolare, che venivano utilizzati sia per i western girati all'italiana che per i film di Bud Spencer e Terence Hill. E in alcuni ci ho girato anch'io un cortometraggio che poi non sono mai riuscito a terminare, perché vabbè, per ragioni che non è manco bello ricordare, insomma. E, però insomma. Però... Roberto, tu cosa ti ricorda? Mi ricorda tantissime cose, i film di Bud Spencer e Terence Hill in coppia, che disaccoppiati sono bellissimi e hanno anche avuto delle colonne sonore, adesso altre le vedremo, adesso, eccezionali. Parlerò in mente, per ognuno di noi ha la sua scena preferita, ce ne sono miliardi, a me una della mia preferita in assoluto è Osvaldo, che non so se ricordate, sì. Che è il barbiere da mitico, come anche c'è Paganini nell'altro film. Ah, Paganini, sì, Paganini. Mi ricordo quando l'orario del bar sarebbe le 10, io dovrei chiudere. Si tira indietro. Il bello è che veramente, come diceva Davide, queste scene e anche le musiche, tutte le musiche quasi, sono immortali, davvero. Si possono rivedere 100 volte e continui a ridere, come lo schiaffone lì a Mescal, cose di questo tipo. O chi è che non tradisce? Emiliano non tradisce Gringo. Esatto. Bellissimo. E ovviamente poi questi film, nel mio caso specifico, non so voi, mi ricorda ovviamente mio padre, nel mio caso specifico che non c'è più, perché andavo sempre con lui a vedere questi film e ho questo ricordo di averli visti in prima visione al cinema, certo, con mio padre, e andavamo sempre a vedere questi film. Quando ne usciva uno nuovo, subito. Partiva e si andava a vedere Bud Spencer, Terence Hill, e io ho questo ricordo di mio padre con me di fianco che a guardare questi film. In particolare Bud Spencer e Terence Hill con mia nonna. Mia nonna non guardava molto i film, non guardava molto la televisione. Quando c'era i film di Bud Spencer rideva proprio. Non era né una persona austera, anzi, non era comunque una persona sempre sorridente, però non era una che si sguagliava dai risate. Ma con Bud Spencer e Terence Hill, devo dire, insomma, se le faceva, e quindi era c'è questo allaccio. Penso che poi, io penso tanti italiani della nostra età, della nostra generazione, ci hanno questo legame con un membro della propria famiglia, un film di Bud Spencer in una sera d'inverno qualsiasi, insomma, quindi ci sta, insomma. Assolutamente. Vabbè, questo ci dà là per introdurre il primo compositore, o meglio compositori in questo caso, perché di colonne sonore. Perché in realtà, anche se questa prima colonna sonora famosissima fu fatta appunto da Mica Lizzi e Alessandro Alessandroni, in realtà poi si legarono a Bud Spencer e Terence Hill e a tutta la loro, diciamo, filmografia più famosa successiva un gruppo di un gruppo, un duo formato da due fratelli italiani, tal Guido e Maurizio De Angelis, meglio conosciuti come Oliver Onions. Gli Oliver Onions, bravo. Birra o salsiccia? Esatto, proprio ieri l'ho visto. L'altro ieri l'ho visto. Pensa che i fratelli De Angelis romani, tra l'altro, romani, sì. Tra l'altro laziali. Nessuno è perfetto. Gli Oliver Onions è un duo di compositori che ritroveremo anche nelle prossime puntate che faremo, sia dei telefilm e sia dei cartoni animati. L'hanno fatta de roba. Una produzione talmente ampia che li ritroveremo sempre. L'hanno fatta di roba Maurizio e Guido De Angelis, che tra l'altro 2 anni fa, prima del Covid, hanno fatto un bellissimo concerto all'auditorium che è stato praticamente impossibile andare, perché i biglietti sono partiti tempo veramente mezza giornata, e infatti io rimpiango tanto, e pare che sia stata una serata bellissima e commovente, perché è stata una sorta di concerto d'addio per un duo storico che, vabbè, in realtà non lavorano più insieme da tanto tempo, perché in realtà è più Maurizio che continua a lavorare per la televisione e via dicendo, però insomma deve essere stato bello, devo dire. Ho rimpianto tanto questa cosa. Allora, ricordiamo giusto velocemente, ti ho dato gli amici. Questa era Doom Buggy, che era la colonna, il tema principale di Altrimenti ci arrabbiamo, altro storico e fantastico film di Bud Spencer e Terence Hill, che avrò visto 800 milioni di volte, che sappiamo a memoria. Altre loro colonne sonore cinematografiche sempre legate, in realtà in questo caso quello che mettiamo adesso, che è Anche gli angeli mangiano fagioli, è solo Terence Hill, perché in questo film non c'era Bud Spencer. Bud Spencer fu sostituito da un altro attore solo per questo film, ma che faceva praticamente, quest'altro attore non mi ricordo neanche il nome, scusate, ma faceva praticamente la parte di Bud Spencer. Ce l'hai Anche gli angeli mangiano fagioli? La mettiamo brevemente, Simone. Incredibili, anche molto versatili, creavano queste colonne sonore sempre diverse, sempre comunque orecchiabili, e che entravano subito nella memoria degli ascoltatori e ti rimangono lì, insomma sono dei motivi che poi tu ogni tanto ripeti, risuoni, ricanti, così anche come le altre canzoni storiche. Una delle più famose è quella del film di Badana Joe di Bud Spencer, che anche questa tutti noi ricordiamo e amiamo. Joe, oh Banana Joe, tu tienes, oh Banana Joe, corazón gigante y alma soñante, oh Banana Joe, Joe, oh Banana Joe, tu eres, oh Banana. Che poi, se mi permetti, e io di questa canzone amavo la voce, quella baritonale, quella bassa, proprio mi sapeva proprio di Africa, cioè quando ero ragazzino impazzivo per questa era bellissima. Ma non era Bud Spencer che cantava quella? Sì, no, era lui, era proprio lui, sì, era lui con la sua voce, perché Bud Spencer, ricordiamo, è anche musicista, suonava il sax. Ha fatto anche cantoni, ma lì cantava anche Benito Chavarral. Adesso non ricordo in quale canzone, molto bassa, adesso non ce l'abbiamo, era molto carina. Comunque l'attore era Giuliano Gemma, quella di Anche gli angeli mangiano i fagioli. Sì. Ah, era Giuliano Gemma, ecco, non mi ricordavo. Mica pizze fighi, scusa se per me. No, infatti. E sia gli attori che gli Oliver Onion hanno avuto un successo enorme in tutta Europa, particolarmente in Germania. E so che sembra incredibile, ma in Germania sia Bud Spencer e Terence Hill che gli Oliver Onion hanno avuto un successo ancora superiore a quello che hanno avuto in Italia. Sì, ma anche in tutto il mondo, comunque anche in Sud America tantissimo hanno avuto. In Sud America molto. Ma in Germania ancora adesso sono follemente innammorati di tutti e due. Beh, questo è come il fenomeno Paolo Conte, che in Italia probabilmente lo conoscono un po', in Francia ci andavano matti, vedete. Vabbè, dai, ma spesso le telesini in Italia comunque li conoscono. In Italia sono molto apprezzati, ma so che sembra incredibile. E voi parlate con un tedesco di Terence Hill o di Oliver Onion, cioè, adesso hanno appena hanno il museo per ognuno di loro. C'è il museo di Bud Spencer che è a Berlino, che sta aprendo, aperto da poco, no, cose assurde. Beh, devo tornare a Berlino solo per questo, non lo sapevo. Quindi. Esatto. Andiamo avanti. Poi le altre che ho inserito c'è Bulldozer, lo chiamavano Bulldozer, che è anche questa storica. Anche se il film è uno sì di quelli meno, perché poi ne hanno iniziato a farlo, però la colonna sonora è mitica. Diciamo che poi hanno iniziato un po' a farli in fotocopia questi film a un certo punto. Tipo in questo c'era anche Jerry Calà, quindi okay. C'era per quello tipo doppia libidine. Esatto. E poi c'è Fantasy, l'ultima. Aspetta. Poi dopo concludiamo il ciclo degli Oliver Onions. Attenzione, perché qui c'è un allaccio, secondo me. Te lo chiedo a te, Carlo, che sei sempre esperto, sai tutto. E invece no. Ma questa è o non è la canzone dei Galaxy Express? Certo, sì, è. Ma infatti loro gli Oliver Onion sono anche noti riciclatori. Anche per esempio la colonna sonora di, ne parleremo quando faremo quella dei telefilm, della sigla finale di Spazio 1999, in realtà era una loro canzone precedente a cui semplicemente cambiarono le parole e diventò la sigla finale di Spazio 1999. Vabbè, con questa produzione questo non vuol dire che riciclare sia un male. No, no, anzi, no, vabbè, però, insomma, cioè io tante volte trovavo la dissociazione. Io però questa l'ho già sentita, capito? Sì. È così. Va bene, ragazzi, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa su gli Oliver Onions e i ricordi legati agli schiaffoni di Bud Spencer e Terence Hill, o passiamo al prossimo. Vabbè, scusa, lo devo fare. Certo, ce ne sarebbero tantissime. Santa Maria, cos'era? Flying in the Air. Esatto, Flying in the Air, cantavo prima. Quella lì del solo Puffin ti darà forza grinta volontà. Chi cerca un amico trova, chi trova un amico trova un tesoro, era qualcosa, il titolo era quello, mi sembra, sì. Quindi troppe ce ne sarebbero, però sì, come ho premesso, purtroppo abbiamo dovuto fare delle scelte e comunque ce ne saremmo dimenticate, ce ne siamo dimenticate sicuramente tantissime. Mi permetti però di fare un commento su questa cosa, perché l'abbiamo già detto, è la terza volta che facciamo questa premessa. Sono anche scelte legate al proprio cammino, alla propria esperienza, no? Quindi sì, ai propri ricordi, cioè nel senso non è che stiamo a fare una trasmissione di musica e cinema, cioè nel senso chiaramente è una trasmissione che parla degli anni 70 e 80 in base a quelle che sono le nostre percezioni anche, quindi ci sta, nel senso poi è chiaro che se qualcuno dice no ma non hai messo e fa la tua trasmissione. Va bene. E comunque gli Oliver Onions ne avremo modo ancora di approfondire, perché come ho detto torneranno quando faremo quella sui telefilm e quella sui cartoni animati. Quindi, ma adesso abbiamo parlato prima di western e del fischio, e cosa ci ricorda il western, il fischio, la musica degli spaghetti western, eccetera, se non ricordarci. Io ci ho da dire una cosa subito, però dico aspetta. lascia andare. Ed è già West. Sì. Allora, a parte, dai, poi Carlo ci dice di chi stiamo a parlare, perché cioè, bisogna sempre inchinarsi. Bisogna sempre inchinarsi. Il maestro. Esatto. Il maestro Ennio Morricone. Sì, nel cinema c'è una caratteristica importante nelle colonne sonore, ossia la musica che diventa simbolo, no? Diventa logo. Cioè, voi pensate sì. al. Poi lo facciamo sentire dopo. Pensate alla marcia di Indiana Jones. No? Sì, sì, sì, sì. E certo. Indiana Jones, la musica è il logo del film, fondamentalmente. Sì. E la stessa cosa, questo brano, ma anche solo l'introduzione. Quante volte l'avete vista in cose che non c'entrano niente con l'Italia o roba? Io a livello musicale l'ho sentita mille volte, pure su Amiga 500. Cioè, nel senso, te l'ho trovato delle scansioni. Non so se c'era tipo un programma per copiare i dischetti che c'aveva questa introduzione proprio, ma proprio solo il riff proprio taradada. Però vabbè, me lo ricordo proprio vagamente, cioè, ma questa, cioè, è un, io penso che esistono milioni di persone in tutto il mondo che conoscono sto brano, secondo me. Esatto, identifica il western. Identifica, tu puoi sentire esatto. 3 secondi e sei nella, ed è già subito western, eh. Sì. Sì, questo assolutamente. Poi vabbè, Ennio Morricone già solo mi vergogno anche a dire chi è, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, perché ragazzi stiamo parlando di praticamente uno dei più grandi maestri musicali del Novecento, che sicuramente verrà ricordato per sempre. Forse il più grande per le colonne sonore. Io penso che la divide con qualcun altro, ma sì, ne parleremo poi anche di un altro grande dopo, ma sì, sicuramente Ennio Morricone secondo me Ennio Morricone in generale, non lo dico perché è una questione proprio del legame anche nazionale o roba del genere, però secondo me Ennio Morricone è stato forse il più è stato il più grande, perché comunque ha legato il suo nome a film di importanza storica straordinaria, e ha prodotto una quantità di colonne sonore che voi non avete idea. Più di 500 film e serie TV. E la cosa straordinaria è che secondo me, appunto, anche film che hanno fatto proprio la storia del cinema, e infatti adesso poi sentiremo qualche cosa. E più di 60 film della sua, con sue colonne sonore hanno vinto premi. Esatto. Più di 60. Ciò nonostante, lui non è mai stato, fino a 2 o 3 anni fa, quando è, insomma, adesso non ricordo, non è mai stato celebrato come grande artista del mondo del cinema, tant'è che non aveva mai vinto l'Oscar alla carriera, fino a che poi alla fine in qualche maniera nel 2007 gliel'hanno dato. Esatto, fino a qualche anno fa. Però il pubblico apprezzava, perché ha venduto molto di più dell'altro di cui parleremo dopo. E questo ci dice quanto poi le colonne sono, cioè quanto l'Oscar in sé per sé non rappresenti. Ma la cosa che dicevo prima vale per molti film di Morricone, cioè tu senti veramente l'attacco, non dico le prime note perché spesso non sono note, vero. Qui era un fischio, un urlo, i primi suoni che lui fa ti immedesimano, anche se non hai visto il film, in quell'ambiente. Voi vedete anche un giovane, una persona che vede per la prima volta Il buono, il brutto e il cattivo, vede l'introduzione, vabbè, c'è il silenzio di 7 minuti di Sergio Leone che aiuta, ma con questa colonna sonora è veramente impressionante, cioè lo dicono tutti quelli che l'hanno visto per la prima volta. Questo è unico, secondo me. C'è da dire che non è che i premi gli sono mancati, No, all'Oscar che ha preso nel 2007 alla carriera, in realtà in carriera ha vinto 3 Grammy Awards, 3 Golden Globes, 6 BAFTA, 10 David Donatello, 11 Nastri d'Argento, 2 European Film Awards, 1 Leone d'Oro alla carriera, e ha venduto più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo. Quindi comunque, allora, scusa salutando un attimo anche tutti quelli che stanno in chat, c'è Vittorio in chat che dice che secondo il suo parere i De Angelis non hanno avuto il successo che meritavano negli Stati Uniti. Perché praticamente loro hanno rifiutato un invito dell'RCA di trasferirsi a New York, avrebbero dovuto. Sì, poi sono scelte di vita, esatto. Credo comunque che abbiano avuto un gran successo lo stesso. Io credo che loro sono stati felici di quello che hanno fatto, insomma, fondamentalmente. Esatto. Insomma, e ribadisco, poi cioè non voglio entrare nel merito, però andiamo anche un secondo avanti, perché ragazzi io qua se no facciamo le quattro, vabbè, dai, metti le altre mitiche. No però dico no, in generale dico qua io mi fermo un secondo, perché non solo a me questo film mi fa piangere, ma e secondo me è il film tutti, più bello che io abbia mai visto in assoluto, cioè proprio è qualcosa di vero. Boh, non lo so descrivere. Non diciamo il titolo. Esatto. Io vi dico, ascoltate e vedete che emozioni vi dà. Esatto, per favore. Esatto, perché è questo, è tutto qua. Stavo dicendo in chat, io sto film l'ho visto mille e mille volte e continuo a vederlo, e più lo vedo e più è immortale, sai, le cose dopo un po' quando le vedi tante volte sì, ma questa canzone ti fa pensare che tutti noi abbiamo avuto una Deborah. Sì. Ma il 50%, il 50% del film è anche la colonna sonora, ragazzi, cioè. Sì, c'era una volta in America. Comunque io devo dire che sarò fuori, cioè a me piace tantissimo anche questa, la canzone di Deborah, C'era una volta in America, è fantastica, però io più di C'era una volta in America sono molto più legato a C'era una volta il West, anche come musica, cioè a me fa piangere ancora di più quella, però è un mio fattore personale. No, vabbè, io nella mia vita non riesco mai a fare comparazioni, quando mi dicono quali sono i film più belli, io non ce li, cioè non so capace, lo sapete, l'ho già detto tante volte, però devo dire che questo film in qualche maniera, per ragioni mistiche, sono particolarmente legato, quindi è proprio non sono mistiche, cioè racchiude una serie di emozioni forti, il tradimento, la cattiveria in certi momenti, l'amicizia portata fino alla fine, in breve la vita umana, la delusione amorosa, abbiamo Deborah, che alla fine è una stronza Deborah, perché poi diciamoglielo, però anche lui alla fine che Deborah, cioè, so 40 anni che te lo dico che sei una stronza, non è tanto simpatica, però quindi vedi in piccolo e in maniera estremizzata, chiaramente si parla di gangster, si parla di criminali, comunque la vita umana, e secondo me trasmette moltissimo, oltre alla bellezza della fotografia, di tutto, è eccezionale. Sì assolutamente, sì. Capolavoro. C'era una volta il western, però fa piangere quando parte il treno. Sì, no, ma nella canzone proprio, quando si mette a cantare la cantante lirica che fa quella voce, se la puoi mettere su, te la ricordiamo tutti. Madonna, raga. Chi era comunque? Cioè, chi è? Chi era? Chi era? Un po' appena morto, purtroppo l'anno scorso. Cioè, ti butto là tre note. È già t'ho travolto, cioè. Che poi, scusate, mi si sono alzati tutti i peli. Sì, assolutamente. Sì. Ma io l'ho detto, due note, cioè, se tu vai a pensare alla complessità armonica del concetto di sto brano, no? Sì. Non stiamo a parlare, no? Cioè, nel senso, sono sicuramente cose più importanti da quel punto di vista, ma è l'emozione che ti pompate, non so, cioè comunque che poi tra l'altro io perderei più tempo su questi che su tanti che so alla fine che avremmo risentito centinaia di migliaia di volte anche ma li ho messi perché fanno parte della cultura musicale. Ma sta bene però dico, cioè se devo perdere un minuto di più lo perdo su sti due brani piuttosto che insomma. Ripeto, l'emozione che trasmette, bastano pochi secondi e tu, se hai visto il film o cosa, rientri istantaneamente nell'atmosfera. Assolutamente. E questa è la magia di Ennio Morricone, altro che gli altri, cioè, pur bravi, per carità. Sì, io ho detto, ho apprezzato tantissime colonne sonore, tantissimi artisti. E io compravo dischi di colonne sonore perché c'era un periodo ancora col vinile che ero proprio appassionatissimo in generale. Cioè, io. Da Conti e Williams e vabbè, ovviamente Morricone e tanti altri, insomma, in linea di massima. Però ecco, come hai detto te, cioè io, tre note e tu stai proprio dentro la pellicola. Cioè stai nella fotografia, nei colori, nella polvere, in tutto, cioè incredibile. Vabbè, Davide, vuoi aggiungere qualcosa? Sta piangendo. Ma io paradossalmente non sono invece così legato come voi a questo tipo di film, sono più legato a quelli che vengono dopo, però le emozioni sono le stesse, è la stessa identica cosa. Io quando sento, anch'io ho acquistato moltissime colonne sonore di film, e quando mettevo in auto il CD, quando tu li mettevi ti sentivi tutto il CD, non è che c'era una compilation, sparavi quello, parliamo ancora di tempi in cui c'erano i CD come mezzo per ascoltare la musica. Certo. Lo mettevi e iniziavi il film. Esatto, iniziava il film e arrivavi, facevi il tuo viaggio di un'ora in macchina per andare in ufficio e ti sei visto il film sentendo la musica. E quindi tu in realtà stavi mettendo un film e avevi messo solo la colonna sonora. Beh, indubbiamente è così, perché poi nel disco completo della colonna sonora ci sono tutti i temi di tutte le sequenze, no? Quindi in realtà poi alla fine te lo riporta, insomma, ragazzi. Però se vogliamo parlare di musica e di logo, sì. Tre note. Carlo, di che cosa stiamo parlando? Io non l'avevo visto neanche il film e l'ho visto anni dopo, ma sta canzone qua la conoscevo comunque. Esatto, tutti, ragazzi, è quello che ti dico. È così. Ma sembra fatta apposta, cioè sembra cucita addosso. È cucita addosso, perché la bravura di Morricone era Morricone quella. Cuciva, cioè. Cavoli. Lui migliorava i film, cioè credo che certi film, se non ci fosse stata la sua musica, forse non sarebbero così di successo. Ma qui non è Morricone. Beh, comunque chi è l'autore non ha importanza, però diciamo in linea generale, chiunque sia, se fa un lavoro buono con la musica, che sia Morricone, che sia... ma in generale sì, cioè nel senso... Se è veramente bravo, cambia la sorte del film. Qui parliamo comunque di Nino Rota, voglio dire. Esatto. Comunque parliamo sempre di un grande, certo, magari con meno conosciuto, ma non da meno. Diciamo anche che il cinema, essendo un'opera multimediale da sempre, cioè nel senso è stata forse l'opera magna da quel punto di vista, non è mai stata, è stata considerata un'arte. Con molta fatica, perché insomma alla fine, all'inizio veniva sempre un po' guardato un po' così, però proprio questo connubio tra fotografia, movimento, teatro e musica poi alla fine gli hanno attribuito una potenza comunicativa importante, perché le persone si riconoscevano nel movimento, nella recitazione, nella voce, e poi quando c'era la musica che accompagna in maniera magistrale alcune sequenze che secondo me alcune sequenze senza la musica sarebbero state belle, probabilmente uguali, ma meno potenti, questo sicuramente. Ah, sì. Assolutamente. C'è dubbio. Comunque, riguardo ai marchi e la musica che fa il marchio, ci dà là per introdurre il prossimo personaggio, autore, compositore, che, se vogliamo, al contrario di Morricone era sentimento, era musica, era qualcosa che trasmette un sentimento, cioè ti lega anche sentimentalmente. Qua invece è proprio più americano, quindi più brand, ma non per questo non assolutamente da discreditare, perché nella sua immensa produzione praticamente stiamo probabilmente citando l'autore della maggior parte delle colonne sonore di successo dei film del Novecento. Diciamo i più blockbuster, Di John Williams. John Williams è un direttore d'orchestra, compositore statunitense, che praticamente, cioè, solo per dire, ha vinto 5 Oscar, 25 Grammy, 4 Golden Globe, 3 Emmy, 7 BAFTA, solo per citare alcuni. Praticamente è stato premiato 182 volte e nominato 321. Vabbè, tutti i premi americani, però. Sì. Diciamo che faceva solo quello, perché alla fine praticamente sì, ma lo faceva effettivamente, lo faceva bene, dai, perché non si può negare che queste colonne sonore lo hai messo, si può. Io ho la 10, c'ho questa. Sì, è vero. Il file questo l'hai dato. Io è per questo che dico, esatto, c'era confusione in tutto. Esatto. Ho sbagliato. Ok, ragazzi, sbagliato. Però poi ci facevi anche lo spiritoso, capito? Allora. Cioè, che devo dire? C'ho la fusione da vaccino, l'ho detto. Fusione da vaccino. Ho ammesso di aver sbagliato. Ok, allora facciamo una cosa. Comunque ci siamo già proiettati. Facciamo una cosa a sto punto. Dai, facciamo quella di John Williams, però dai. Ok, questo è che poi sembrava quasi una provocazione, tutto sommato. È vero. Sono tempi duri per la ribellione. Carlo Sant'Agostino sbaglia mandando dei file fake, confondendo la regia e tutto quanto il podcast. Soprattutto host con TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Vabbè, dai ragazzi, questo è Star Wars, insomma. Guerra e Stagione. John Williams è l'autore di Star Wars, di Indiana Jones, Superman e T. Va. E altre 100.000 Harry Potter, Jurassic Park. Comunque, Harry Potter, Indiana Jones è un marchio, comunque, come dici tu, Simone, perché appena lo metti su è Indiana Jones. Assolutamente. Cioè, non riconosco. Assolutamente, se non mi si impalla il computer, sicuramente. Cioè, io questo dico, questo è quello che dicevo prima, cioè tu il mare, tre note. Tant'è che voglio dire una cosa, e l'ho già detta in altre occasioni, in quello che viene considerato il film apocrifo non esistente, ossia Indiana Jones 4, sì, c'è il momento in cui lui esce fuori dalla macchina che lo picchiano i comunisti, no, e c'è il cappello che rotola, cioè lui non lo vediamo, no? Noi non lo vediamo Harrison Ford, cioè questo il cappello che rotola, no, con un abbozzo del tema che è questo, sì, e lui che raccoglie il cappello, e quando raccoglie il cappello il tema si rafforza musicalmente. Cioè quello è momento è Indiana Jones, cioè tu puoi di qualsiasi cosa, quel momento è Indiana Jones, cioè in quel momento io ci ho avuto la pelle che mi si ribaltava praticamente. Poi dopo il film è una merda. Un quarto sicuro. Beh, ma perché Mandalorian, l'ultima puntata, quando appare finalmente dal ritiro, ma c'era il tema di Darth Vader, il tema della morte nera dei. No, quando appare Luke Skywalker alla fine, sì, che salva tutti, parte la colonna sonora e, cioè, se andate a vedere le reazioni in giro, c'è la gente che piange. Io piangevo. Ma io devo dire la verità, di marchio, che so, c'è lì il tema di quando metti quella, tu pensi subito a Darth Vader, sì, quando metti l'intro di La Marcia Imperiale. Vabbè, la stessa cosa, questo è, però devo dire sul fatto di Luke Skywalker, io devo dire, quella scena l'hanno fatta per noi, anche perché oggi si tende a demitizzare, no? A distruggere il mito, invece per la prima volta dopo tantissimi anni ho visto un'opera che ha voluto fare un tributo positivo. E questo a me ha fatto mitizzare. Questa è una lunga storia, come sai. Per me Disney e chi c'è adesso dovrebbe andare a cogliere patate. Vabbè, però, no, lasciamo perdere, perché voglio aprire un capitolo che io poi dopo poi mi restano. Comunque, comunque Indiana Jones. Metti la marcia imperiale, ce l'hai la marcia imperiale? Non l'ho caricata la marcia imperiale perché giustamente. Però allora vai con anche Superman, perché anche secondo me quello è un marchio assoluto. È un marchio assoluto quella di Superman, sempre di John Williams. Sì, questa un po' di meno, perché io penso che... No, questa io quando la sento io faccio Posaman. Ma anche io. Alzo il braccio. Però... Cioè, questa è Superman. Quando ti senti... Posaman. No, già, allora, diciamo, posso dire due cose, scusa, dico solo due cose. Uno, è vero che è un marchio, però è vero che è un marchio per me, per te e per tutti quelli che hanno visto quel Superman lì. Oggi, secondo me, non è paragonabile a Star Wars e Indiana Jones, chiaramente, sta cosa. Dall'altra, che Williams con le sue marcette un po' alla fine lo riconosci che è lui, cioè, tante cose un po' si ripetono, diciamo. Sì, però... è molto molto molto bravo, perché comunque riesce a contestualizzare se si parla di magia, se si parla di fantascienza, se si parla di... lui ha fatto colonne sonore anche di film molto importanti, pesanti, non sempre roba allegra, leggera. E ha fatto Salvate il soldato Ryan, Lo squalo, Jurassic Park, non mette Lo squalo, non ci ho fatto Jurassic Park. Sì, comunque contestualizza bene quando c'è la sua musica è anche Harry Potter, la colonna l'ascolti è magia assolutamente. Ma diciamo, scusa, non è l'unico a fare marcette, prendi, non so, Momenti di gloria con Vangelis, anche, vabbè, anche Vangelis lui, con le trombe. Ma che vuoi dire a Vangelis, dai, cioè, ha fatto la colonna sonora di Blade Runner, basta, cioè zitti tutti zitti. Comunque vero, al di là dello scherzo e che non l'abbiamo messa, tra l'altro non l'abbiamo messa, è vero, vabbè, ma troppi non abbiamo messo l'ultimo dei Mogliani. Io con l'ultimo 2 faremo il volume 2. Io con la colonna sonora dell'ultimo dei Mogliani piango, cioè metto lì e piango da solo, cioè poi se tu vedi è una cosa che è un loop continuo dello stesso riff, a me mi fa impazzire. Comunque, se volete piangere, giustamente c'è un modo per piangere, a volte sorridere, piangere un po' così, però alla fine c'era... Io c'avevo in classe un ragazzino che aveva questi occhioni grossi azzurri, io lo chiamavo E.T. Perché lui era E.T., cioè lui aveva questi occhioni grandi. Sono tutti brand, comunque le musiche di John Williams sono Harry Potter, a Guerre Stellari, Indiana Jones, Superman, incontri ravvicinati del terzo tipo. Cazzo, ragazzi, cioè, fermi. Allora, ecco. C'era una cosa che mi mancava, porca puttana. È quella, quattro note. Anzi, cinque. Cinque note. Cinque. Peccato che T l'hanno sepolto ad Alamo Gordo, se no. Beh, in qualche maniera hanno fatto bene. Poi c'è qualcuno che se le ricompra, quindi vabbè, lasciamo perdere, insomma. Pensa. Ma no, non c'è nessuno, è una falsa notizia. Una legend. C'hai paura che te boccano dentro casa. Vabbè, diciamolo, Star Trek è di Jerry Goldsmith, okay? Va bene, bravo, non è di John bravo, Williams, okay? Bravo, ma soprattutto quindi la morte nera di Star Trek era, no, giusto? Esatto. Luke Picard c'era, cioè mamma mia ragazzi, che fatica stasera, lo so che usciremo male da questa. Ma chi se ne frega, ma stiamo qua per divertirsi, ragazzi, cioè, siamo qua per farvi venire le lacrime, però per ora le lacrime finiscono, adesso ci sono le cose, quelle fighe, è vero, andiamo sul commercio, vale, vai Simone, è vero, brutti cattivi, no, per ora ho detto, per me questo è, sono quelli che introduciamo adesso, sono gli anni 70, cioè gli anni 70 sono questi, anche perché erano tutti uguali. Basta. via la gambetta, vai. Oh. Dito in alto. Su con le ginocchia. Vabbè, Dino ha lanciato la giacca in mezzo alla pista facendola roteare. C'è Sant'Agostino che fa la mossa dell'anca. Andatela a prendere perché la giacca costa, mica che. Cioè. In chat c'è molta gente che sta decidendo di abbandonare l'ascolto per aver sentito la morte nera di Star Trek. Volevo ricordare che è una citazione di The Big Bang Theory, un telefilm. Andatevi a vedere la scena. Infatti, ora ragazzi, lo sappiamo bene. Però posso dire una cosa: Jesus e Saturday Night Fever hanno sicuramente, cioè, c'è solo da dire una cosa su VG's, che questa colonna sonora, ok, cantata da VG's, ha venduto 41 milioni di copie in tutto il mondo, è diventato il disco più venduto di sempre nel mondo fino ad arrivare a Thriller di Michael Jackson, che l'ha superato, cioè da quando sono usciti era il disco più venduto del mondo. Sono del grandiosi mondo. E loro si sono inventati questa roba di cantare in falsetto che prima non facevano ed erano bravi lo stesso. Andatevi ad ascoltare, non so, New York Mining Disaster 1941, che è favolosa. Poi hanno cominciato questa cosa e sono esplosi. Esplosi. Comunque volevo dire che c'è stato un periodo in cui c'erano alcuni film che potevamo considerare sci-fi di serie B, diciamo così, con coproduzione italiana, dove poi alla fine artisti, grandi artisti che probabilmente stavano emergendo, si sono anche prestati. Stavano emergendo? Che cazzo? Si emergevano, non si sapeva chi erano questi tizi. No, ma guarda, non si sapeva chi fossero. I Queen, boh, non so, boh, una cosa. Vabbè, ragazzi, cioè, sto film è piaciuto tantissimo. Cioè. Questo film è un capolavoro, ragazzi. Un capolavoro. Ricordiamo, prodotto da De Laurentiis. De Laurentiis. Insomma, sta band emergente inglese. Sono qui regina Alfredo Bertuccio. Eppure non l'ho più rivisto sto film, sai, dopo tanto tempo. Che c'era l'attrice femminile, dice il nome, era Ornella Muti. Ornella Muti, no, cioè chi era l'attrice femminile, questo mo cacciato. E non mi veniva il nome. La donna più bella del mondo, di ogni mondo, di ogni universo, cioè. È incredibile. Però è piccolina, io quando l'ho vista dal vivo, l'ho incontrata, è veramente toccata. Piccolina. Mi perdoni Tomaiuolo, lei che non, insomma non mi sembri, non mi sembra proprio Marcantonio, diciamo, insomma. Appunto. E io non sono Marcantonio, figurati, quindi per dirti che è piccoletta e cioè non toglie bene, come diceva, come si dice, donna nana tutta, ecco io volevo dire la botte piccola c'è il vino buono, lui è arrivato da donna nana la Vabbè, dai, comunque Flash Gordon, ragazzi. Flash Gordon, allora, pochi lo sanno, ma Flash Gordon è il film preferito della regina Elisabetta. No, davvero? Sì, oh. Sì, lo vede tutti gli anni. Capisce cazzo la regina Elisabetta, comunque. Veramente. Comunque, no, lo vede con i suoi nipoti, è una cosa divertente, come tradizione. Comunque, Flash Gordon è, in realtà è stato questo film prodotto da Dino De Laurentiis, che era un prodotto come un colossal all'epoca, nel 1980, ma che poi alla fine ebbe un'accoglienza tiepida sia come film sia nella colonna sonora, che lui chiamò questi Queen perché gli furono consigliati come gruppo super figo, bravissimo, perché Queen in quegli anni stavano esplodendo, come tutti sappiamo. E quindi lo fecero tra un album e un altro praticamente di corsa, praticamente solo perché lo voleva fare Roger Taylor, perché era appassionato del fumetto di fantascienza. Cioè, dai, famolo, ti prego, dai, famolo. Mezza giornata in studio, dai, veloce. Infatti l'album questo non fu, anzi fu ricordato come il primo insuccesso dei Queen, cioè dopo tanti album di successo, questo non vende un cazzo praticamente, però è rimasto nella storia perché è stata forse una delle prime volte dove una band rock famosa si prestava a fare una colonna sonora, un'intera colonna sonora, perché non c'è solo questa sigla ma tutta la colonna sonora è curata dai Queen, quindi tutto l'album è la colonna sonora di Flash Gordon. E Flash Gordon, questo diciamo serie B, no, perché non era prodotto serie B, era prodotto con tanti soldi, però adesso a vederlo sembra brutto. Beh, no, in realtà B-movie nel senso cioè se io cult movie, sì, però se io dovessi lo definisco B-movie nel senso come film di genere, non a livello di qualità, sì, o sotto produzione, sì, insomma. Però poi ragazzi, c'è un film che noi degli anni 80 l'abbiamo amato tantissimo, ma io che, l'ho amato tantissimo, ma che secondo, sì, me è stato dimenticato troppo presto e secondo me anche per i motivi sbagliati, perché questo film non solo c'ha una colonna sonora strepitosa. Vabbè, adesso hai già saltato, sei arrivato al secondo dei Queen, ok? Stava facendo le colonne sonore dei Queen e questa è la seconda. Eh sì, appunto, perché volevi di altro su Flash? Stavo finendo di Flash. Ah, vabbè, scusa. Io no, ma basta, ho finito. Vabbè, ok, bene, basta. Okay. Comunque, basta. Volevo dire su questo film che che andrebbe ricordato per ragioni tecniche, cioè tecnicamente dal punto di vista cinematografico è un film che ha portato tanta innovazione. Soltanto a pensare a tutte le transizioni digitali, se vi ricordate tutti i passaggi di scena utilizzando quelle maschere dall'acqua, no? E con dietro le colonne, cose che oggi sono all'ordine del giorno. In realtà quel film l'ha portato in auge. E poi perché parlava dei immortali, parlava della scena della storia mitica di Duncan MacLeod o Connor MacLeod? Lui era Connor, vero? Connor MacLeod. Sì. Connor MacLeod. Comunque Duncan era quello del telefilm, insomma. Stai parlando di Highlander, e anche in questo caso i Queen furono chiamati per fare la colonna sonora, ma al contrario di quello che successe con Flash Gordon, qui crearono dei veri capolavori immortali. A partire da Once Only Forever, che è veramente una canzone stupenda ancora ascoltarla oggi, e ai grandi successi commerciali come Kind of Magic, che era la sigla praticamente, una specie, sì, di magia. Sì, sì, sì. Però questa è l'aria più, sì, più sentimentale, toccante, del film. Film che io continuo a dire, sì, toccante, sì. Io comunque continuo a dire che secondo me è un cazzo di film, cioè. Ero innamorato io dei Lander, del personaggio. A tutti noi, guarda, tutti quelli della nostra epoca l'hanno visto così proprio per i motivi che dici tu, perché era la prima volta che si vedeva un film fatto così. Cioè non c'era. Che rivederlo adesso ti sembra, dici vabbè, ma perché l'hai visto poi in mille altri film, esatto, che sono venuti dopo. Esatto. In realtà era la prima volta che si vedeva un film fatto così. Ed era un grandissimo successo all'epoca, ragazzi, stiamo parlando di uno dei più grandi successi cinematografici, che purtroppo ha lanciato quell'attore inutile che è quello, sì, quello è vero, quello che è il protagonista, però parlando di prime volte, di tutti questi film di cui stiamo parlando, se non il 90%, anche forse il 100%, noi abbiamo avuto, almeno io, la fortuna di vederlo in prima visione al cinema. Come no, assolutamente. E prima di quello non c'era niente, cioè c'erano i pupazzi che si muovevano in passo uno, voglio dire. Ma dove li vanno a trovare le colonne sonore come queste che abbiamo fatto finora adesso? Poi hai voglia di dirmi, Carlo, che è tutto uguale, solo noi che siamo vecchi, dai. Diciamo lo spessore. Adesso c'è Sera e Basta. Lo spessore artistico in generale è comunque diverso, ma non, cioè, senza mettere la questione di merito. Era comunque un'epoca dove le cose si facevano in questo modo qua. Cioè, poi è chiaro che i Queen nascono una volta, cioè, non è che nascono Queen ogni generazione, insomma. Da una parte per fortuna, da una parte perché è peccato, insomma, perché comunque io ero proprio un fan incredibile dei Queen, forse difficilmente io sono stato un super fan di band musicali o artisti, però insomma. Ma io, per me l'unica band a cui mi sono veramente appassionato da ragazzo sono stati i Queen, esatto, e ho ancora tutti gli LP, tutti, beh, tutti comunque, gli LP presi musicalmente all'epoca. Era roba tosta, cioè nel senso cioè riuscivano a passare veramente dal falsetto all'operetta al rock come se niente fosse. Comunque ricordiamo che qua c'è dentro questa colonna sonora c'è Friends Will Be Friends, World to Live Forever, A Kind of Magic, Gimme the Prize, che è un'altra, Princess of the Universe, Don't Lose Your Head, tutte canzoni di Queen all'interno di questo film, che andrebbero tutte ascoltate e riascoltate, di Highlander, l'ultimo immortale. Va bene, c'è qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Magari Davide, tu che sei un esperto musicofilo, musicabile. No, più che altro citiamo, giusto per correttezza, che quell'attore là che hai detto te si chiama Christopher Lambert. Insomma, giusto per... Sì, non volevo citarlo perché non lo volevo. E come sai, io i francesi non sì, no, neanche io. Però allora a quel punto noi allora pensavamo che fosse americano e quindi lo chiamavamo Christopher Lambert. Non so se te lo ricordi. Sì, insomma. Bravo. Sì, mi ricordo. Poi lui ha fatto anche quella cosa orribile del film del videogioco di Mortal Kombat. Non so se te lo ricordi. No, non ho visto mai film di Mortal Kombat. Mi sono sempre rifiutato. Sì, ma ha fatto quello di Salvatore. Non era male. Come si chiama? Nirvana. Di Salvatore, sì. Nirvana sì, non era male. Era male. Lui era male. Il film no. Anche in Highlander è uguale. Per me, ovviamente. Vabbè, dai, andiamo avanti. Va bene, dai. Non ci facciamo ulteriori nemici oltre quelli che già abbiamo. Esatto. Andiamo avanti con una cosa che io considero, cioè, nella mia testa è una specie di trilogia, anche se non lo è in realtà. Non so come mai la considero una trilogia nella mia testa, forse perché erano film che erano musical e io li legavo uno all'altro. Perché non sono mai stato un grande appassionato. non beve, ti ho detto che non beve. Non sono mai stato un grande appassionato di musical, ma non si può dire che questi non li abbia ascoltati e visti come tutte le persone dell'universo conosciuto. Grease, quindi non lo so, tu dici che Grease. Per me non è Grease quello che c'era adesso nella lista, però no, io ti metto Grease se vuoi. Cosa avevi nella lista? Io c'ho Footloose adesso. Va bene, Grease e Footloose, vabbè, sono il primo Grease, e il secondo della trilogia. Grease c'era l'asterisco e quindi non l'ho messo, anche perché manca il file comunque. Quindi, cioè non no, c'è... non è vero, c'è, ti ho detto, quelli in arancione, Lo scaricato. Scaricato. E l'ho scaricato, infatti Footloose l'ho scaricato, invece Grease non c'è proprio il file. Vabbè, Footloose vabbè, no, magari certo riesce a trovare Grease, dai. Vabbè, intanto mettiamo Footloose, dai, partiamo da Footloose, dai, così almeno poi dopo, mentre che tu cerchi Grease, e così poi... Tu cerchi, c'è. No, non c'è, non c'è, te dico che non c'è, io non l'ho trovato, quindi non sei. Fatelo in chat. Va bene, ok. Intanto, che facciamo? Metto questo. Sì, Footloose. Dai, mettiamo questo, dai. Intanto recupero. Sì. Come dice Carlo, anche per quanto mi riguarda, non dico che fosse una trilogia, però erano talmente, come dire, era nato questo filone. Scusa, non ti sentivamo, vai, ripeti. Ah no, dicevo, come Carlo diceva, effettivamente, anche se stiamo sentendo Footloose al posto di Grease, una certa nostra mentalità era come dire, stiamo vedendo la parte 1, la parte 2 di qualcosa, la parte 3, erano film diversi, tutta un'altra cosa, però anch'io li vedevo un po' accomunati, ecco. Sì, non so come mai ho questa sensazione, però per me c'era Grease, poi c'era Footloose e poi non so perché ci infilavo dentro come terzo film Flashdance, così. Perché magari ti piaceva. Ma neanche quello non ho caricato. Lo so, ma rivedevo legati, no? Come se fosse una trilogia. Grease, Footloose, Flashdance. Vabbè, perché era l'epoca di quei musical, ballerini, solo saltellini, insomma. Se ti piacevano, io l'ho sempre schifati, quindi. Non è che mi piacevano, dico la verità, però non ho potuto fare a meno di vederli, perché li vedevano tutti, li hanno visti tutti e le musiche comunque le ascoltavo. No, ma c'era un'altra questione, non è che non li volevi vedere, perché a una certa età, no? Quando avevi 18-19 anni, uscivi in compagnia, non è che andavi sempre a vedere quello che volevi tu, ogni tanto bisogna andare a vedere anche quello che piaceva a qualcun altro, eccetera. Comunque Footloose, ricordiamo, è anche famoso tra i ragazzi di oggi per essere citato nel film quello della Marvel, come si chiama, i Guardiani dell'Universo, giusto? Non mi ricordo più il titolo, ragazzi, sono cuocendo. Dove c'è, dove viene indicato come Ma Footloose è ancora il miglior film della storia del cinema o qualcosa del genere. Ma la miglior colonna sonora. Chi è che dice una cosa del genere? È il tizio, quello, l'amico della Volpe lì, della, che pilota, mi viene in mente il nome. Non me lo ricordo neanche io. Il tizio della Volpe, il pilota. Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia. Sì. Ecco. Ah, sì, sì, sì, beh, certo. Ah, vabbè, certo, certo, certo, sì, sì. È lui il tizio che viene rapito, l'umano che viene rapito negli anni '80 e lo trova nello spazio. C'era sta cassettina di Footloose che continuava a riascoltarsi. Sì, sì, certo. E certo. Quindi quando ritrova una terrestre gli dice: ma Footloose è ancora il film più bello dell'universo. Sì, come no? Ovviamente scordato, dimenticato, cancellato dalla storia. Viene forse più ricordato Grease. E poi sicuramente per me, almeno dei tre di questa che considero un po' una trilogia dei musical, la musica che mi ricordo di più e che mi piaceva di più era quella di Flashdance. Te la canto se vuoi. Anche quella non c'è. No, quella te l'ho messa io, se bello te l'avevo messa. Aspetta. Maniac, Maniac. Maniac, okay. Allora Maniac. Mi stai a saltare le cose della lista, perché mi stai a fare un casino. Perché cosa ho saltato, ragazzi, cosa ho saltato? Io sulla lista davanti c'è Maniac, Flashdance. Allora ho sbagliato io, ragazzi, scusate. Vabbè, ora te la trovo, è un secondo solo che... Chi è l'autore di questa canzone adesso? Vediamo chi lo sa. Secondo me lo sa. Lope l'ha scritto. Sembello. Probabilmente è l'unico brano che conosciamo di questo autore. Poi non è vero. Parte. Non è vero, ragazzi. Qua stiamo parlando di un altro grande della musica italiana, di un altro grandissimo della musica italiana. Moroder. Stiamo parlando di Giorgio Moroder. Dai, grande, ho vinto. No, è di Michael Sembello. Allora, è di Giorgio. Fermi. La no. musica è Michael Sembello. Michael Sembello e Moroder. Giorgio Moroder. Secondo me Moroder ne ha fatto un'altra sempre di questa gamma, ma non è questa di Moroder. Ha fatto Flashdance, le musiche di Flashdance, e ha fatto poi la musica che è quella che Simone ci aveva prima e che viene adesso, che è la colonna sonora di Top Gun. Che non c'è. C'è, se dai il tempo, è partito. Ah, ragazzi, cosa vi ricorda questo? Cioè, questo a parte che ricorda FA-18 Interceptor dell'Amiga 500. FA-18 Interceptor su Amiga. Ma quante ne so? Però solo se avevi l'espansione di 500 mega in più, là, come era? 500K. Dunque, Top Gun, io però non lo sapevo che sta colonna sonora di Moroder. Devo dire che io Top Gun l'ho visto, però non è che me lo sono mai cagato più da tanto, insomma. E Moroder è un grandissimo, ragazzi. Sì, beh, Moroder anche lui. I Feel Love di Donna Summer, cioè, ma poi anche colonne sonore ne ha fatte tante anche lui. Sì, tante, Electric tante, Dreams tante. Ci davamo l'altra volta. C'è da dire una cosa, allora, lui ha fatto American Gigolo e Scarface. La colonna sonora di Scarface, che ha sempre fatto lui, che ha sempre fatto Moroder, è anche la colonna sonora usata in Grand Theft Auto 3 e in Grand Theft Auto Liberty City Stories. Quindi, giusto per dire, le canzoni di Moroder sono finite anche nei videogiochi, quindi le conoscono anche i ragazzi di adesso perché le sentono nei videogiochi come Grand Theft Auto. Senza dimenticare il tema ufficiale della colonna sonora delle Olimpiadi di Los Angeles, insomma, esatto. E i giochi di Seul dell'88 anni. Quello non però ho fatto, come stava dicendo Davide, è uno di quelli che non abbiamo in MP3, che ci siamo dimenticati comunque. Never Ending Story. Oh madonna, quello è il film. che mi moglie, ma io sapete, allora, ve racconto, io non l'ho mai visto quel film, mai. L'ho visto ce l'hai qua. No, ma l'ho visto quest'anno per la prima volta perché mia moglie dice non si capacitava del fatto che io non l'avessi mai visto. E dopo averlo visto, io ho detto, guardandola negli occhi, c'è un motivo per cui non l'avevo mai visto. E vabbè, vabbè. Quando eri bambino quel film lì era eccezionale. Io so solo che mi sono Astarox, stupido cavallo, là, come si chiamava? Mastra, cazzo. Il cavallo stupido, come si chiamava? Che muore che affonda nelle sabbie mobili, tristi. Madonna, che tristezza, ragazzi. Vabbè, dai, ragazzi, comunque Moroder è assolutamente andava citato per le colonne sonore e anche per la sua bravura di musicista. Anche lui è in grado di riportarci a farci viaggiare con la mente, dai. Assolutamente sì, è veramente un altro orgoglio italiano, insomma. Anche se devo dire la verità che io ricordo Giorgio Moroder più come autore di canzoni che colonne sonore in senso più stretto, assolutamente, capito? Sì, però ha fatto anche tante colonne sonore famosissime. Sì, certo. Era lì Chase, Midnight Chase, sì, la disco degli anni 70, la disco degli anni 70, ma anche ha fatto anche tante canzoni degli anni 80, 90, ce ne ha fatte veramente. Ha fatto il primo album completamente digitale, con uno studio di registrazione completamente digitale, con, per la prima volta al mondo il suo album era completamente digitale. Ha fatto tante cose innovative, insomma. Comunque ricordo che anche ha fatto la colonna sonora Chase del 78, che faceva parte della colonna sonora di Fuga di Mezzanotte. Sì, lo stava dicendo prima. Quindi Roberto. Lo stai dicendo tu, Roberto, non te l'ho sentito. Sì, l'alcol, ti perdono. il vaccino. Va bene, ragazzi. Il 5G. Torniamo un po' dietro nel tempo. Dai, andiamo negli anni 80 e sentiamoci. Ritorno al Torniamo anche negli anni 50, cioè 80, ma qui si viaggia nel tempo. E qui si va un po' avanti e un po' indietro, sì. Come, tra l'altro, questa è la trilogia amata da mia moglie per eccellenza, insomma. Quindi alla fine va anche amata da me. Alan Silvestri. Altre tre note e sei già e sei dentro al film. Esatto. Vabbè, ragazzi, questo che gli vuoi dire? Sì, che gli vuoi dire? Ritorno al futuro, ragazzi. Grande Doc. Chi non si ricorda, insomma, su questa musica viene alla mente tutta una serie di ricordi, fino ad arrivare a quando lui canta Johnny B. Good alla fine del film, del primo film, che è quella scena. Togli le mani di dosso. Ehi tu, porco, levale le mani di dosso. Vabbè. Questo vabbè, devo dire che è stato il mio film formativo dei miei teenager, della mia età teen, no? Di quando ero teenager, no? È quello che mi ha formato nell'approccio donne, ragazze, uomini, amici. Sì, subito dopo la donna esplosiva, però, chiaramente. Ah beh, certo. Gianluca Mattei ci ricorda Gigovat. Ecco, io qua ho sofferto per un non film numero 4. Io il numero 4 qua ce l'avrei fatto quando gli attori erano ancora in forma. Ci stava alla grande, secondo me. Io guarda, io penso che già il 3 già stavano. Già il 3. Già il 3. Però il 2 e il 3 in realtà erano insieme, era un 2 lungo. Sì, esatto. Secondo me qualche anno dopo un 4 erano ancora insieme, in forma, potevano farlo tranquillamente. Eppure, però, eppure Doc seppellirà Marty alla fine. Purtroppo sì, ma perché per la malattia. Sì. Comunque, grande Michael J. Fox, che negli anni, forse anche per la malattia, anche lui per aver scoperto magari un modo diverso di vedere le cose, l'ho riapprezzato, l'ho scoperto da tanto. Insomma, quindi E devo dire anche con una grandissima dose di autoironia, ha anche partecipato, ha fatto dei cameo, delle cose, insomma. Sì. È vero. Vabbè, dai, qua adesso ho messo un po' di cose perché stavo fondendo, quindi non è che sei andato a casaccio adesso. A casaccio, tra virgolette, però che secondo me andavano ricordate, e per cui una colonna sonora, anche questo è un marchio inconfondibile. Che basta quello, neanche una nota sola. Una nota e la sai, insomma, questa. Dai. Vediamo, perché mica è detto. Questa dicevi? Sì. Chi non sa ricordare? Parabam. E poi tu l'hai messa. Il prossimo disco. Quanti ne ha fatti poi alla fine di sti 7, 8, 30. Sempre scusate, con la stessa colonna sonora, ovviamente. Però tu hai messo. Hai messo la colonna sonora nel cinema, ma in realtà questa è una colonna sonora derivativa della televisione, se non sbaglio. In realtà hai ragione, qua siamo un ibrido, arriva, però diciamo che è stata poi negli ultimi anni soprattutto riportata e ufficializzata dal cinema, anche se è un telefilm inizialmente, sì, esatto. Hai ragione. Questo nastro si distruggerà fra 10 secondi. Esattamente. E poi questa invece, la prossima, vorrei che ne parlasse indicata, cioè il buon Roberto. Hai messo tu Carpenter qua, puoi parlarne tu? Parlo io, vai. Cominciamo a sentirla magari. Sì, sta partendo perché chiaramente sì, ma è parte bassa, non è che ci posso fare niente, cioè, non è che posso alzare. Accelera. No, ragazzi, ci sarebbe da parlare una puntata intera su sto film, quindi non lo faremo. Ovviamente no. L'unica cosa che dico, e poi lascio la parola a Roberto, è che questa colonna è stata di ispirazione sia nel cinema, ma in particolare nei videogiochi. Sì. Tanta roba ci ricorda ste sonorità qua. Vai Roberto, di che stiamo parlando? Filmaccio. Stiamo parlando del grandissimo Fuga da New York, quindi parliamo di film con Kurt Russell, ma parliamo di John Carpenter in questo momento. Esatto. Ed è una colonna sonora eccezionale. Alcuni pensano che lui abbia cominciato a incidere queste colonne sonore per risparmiare, il che poi non è così improbabile, conoscendo un po' la storia di John Carpenter, di cui abbiamo già parlato. Comunque sono veramente belle, con questo ritmo semplice, assai semplice, sincopato. Abbiamo visto questa, c'è quella di Essi Vivono, e ne ha fatte diverse altre. Oddio, sono davvero... Essi Vivono, bellissimo, sì, bellissimo. Sì. È sempre di Carpenter. Lo so, però Carpenter ne ha fatte veramente tante, anche lui. Comunque lo stupido cavallo si chiamava Arteglio, scusate. E la cosa bella, appunto, dicevo che lui è riuscito in con semplicità, veramente con queste poche note, però con questi ritmi, con questi suoni sincopati, con questi ritornelli che ti si piantano in testa e non riesci più a toglierteli. Davvero belli, soprattutto per quel genere di film, insomma. Beh, che ha fatto lui. Carpenter ha fatto La Cosa nell'82, Grosso Quaio Chinatown nell'86, SI1 nell'88 e Il Seme della Follia. Diciamo che la metà di questi possono tranquillamente essere veramente definiti B-movie, ma proprio per ragioni anche tecnico-produttive, sì. Cioè, nel senso, comunque alla fine. E forse la grandezza di Carpenter è stata proprio questa, che anche lui ha creato un genere in qualche maniera, anche se io devo dire che Fuga da New York io non l'ho visto tante volte, non riesco a apprezzarlo come, come, come lo fanno in tanti, insomma. Però no, io il film anche a me non piace, però la colonna sonora è veramente epica, secondo me. Il film è un film un po' commerciale, se vogliamo, però, però non, non era un brutto film, insomma, adesso non esagero. Ma adesso non so il titolo italiano di Assault on Precinct 13, per esempio. Mm-hmm. O Il Seme della Follia, che mi piace tantissimo. Certo, no? Sia i film che le colonne sonore, perché di questo stiamo parlando oggi. Ma comunque, come film d'orrore, dell'orrore, anche se era un B-movie all'epoca, la cosa per me è stato epic, cioè cosa, ha segnato la storia. Io la da ragazzo mi cagavo sotto con la cosa, sì, mi cagavo in maniera diversa, perché era quasi più un, per un film dell'orrore, se vogliamo. Beh, certo che era dell'orrore. Mentre, come si chiama, Il Seme della Follia, io mi sono veramente spaventato per il tema, era folle, cioè veramente spaventevole. Già, sì. Volevo solo aggiungere una cosa che mi sono dimenticato prima, ma che era abbastanza importante. Negli anni passati, parlo di ormai 5-6 anni fa, perché adesso tutte queste cose sono momentaneamente un po' sospese a causa Covid, sono riuscito a partecipare all'Auditorio di Milano in 3 rappresentazioni dove musicisti suonavano in tempo reale la musica del film, facevano la colonna sonora mentre facevano vedere il film, e ho visto Star Wars, Star Trek e Ritorno al Futuro. Vi assicuro che è un'esperienza da brividi davvero. Voi vi state vedendo il film, ma la colonna sonora è composta e vedete giù l'orchestra che suona in tempo reale, sì, dall'orchestra. Bellissimo. È veramente una cosa favolosa. Vi consiglio, quando capita ancora che riaprono queste cose, che rifunzionano, di andarvi a vedere una roba del genere, perché se non avete mai visto un'orchestra suonare, perché dite le opere non mi piacciono, mi interessano, andatevele a vedere con un film e vedete come la cosa è incredibile. Vedete il film, ascoltate la canzone, vi sembra tutto uguale, ma è lì davanti a voi che suona, sembra quasi un sogno, davvero. No, ma infatti, guarda, devo dire che l'hanno fatto con diversi film questo esperimento. Vabbè, io di concerti di musica classica sono andato, però in questo tipo di eventi non ci sono mai stato. Se dovesse capitare, comunque lo rifarò sicuramente. Però c'è Michela che mi ricorda che il 21 e il 22 ottobre del 2015 noi siamo andati al cinema a vedere la maratona di Ritorno al Futuro, che è quella rimasterizzato, che fece proprio in occasione, insomma, della data riportata ovviamente nell'85 2000 e cos'era? 2015. Sì. Quindi alla fine l'85 era... saltava 2015. Esatto, sì. Esatto. E vabbè. Torniamo al nostro viaggio. Adesso ho messo 2 filmetti perché queste musiche me le ricordavo e allora le ho messe, ma in realtà poi ne ho dimenticati altri che volevo mettere, dopo magari ne cito uno. Aspetta, 2 filmetti di che stai a parlare, scusa? Filmetto questo. L'elenco ce n'è uno che canticchiando. Cioè, tu sai di che questo è un filmetto, non capisci un cazzo di cinema. No, ho detto filmetti per ridere, dai Simone, una battuta. Ma cioè, questo è un capolavoro sto film, ma io certo, l'ho fatto vedere quando c'aveva 10 anni, l'abbiamo fatto vedere a Matteo, perché secondo me sto film è insegna, cioè proprio. E questo è uno dei pochi film che ho visto più di una volta al cinema. Sono andato più di una volta a vederlo. Ah, vabbè, allora t'ho quasi perdonato. Quasi. Stiamo parlando di Forrest Gump, naturalmente. Esatto. E anche qui la colonna sonora è assolutamente evocativa e tutti si ricordano della piuma. Esatto. Tra l'altro vorrei aggiungere che questo c'era un periodo in quegli anni lì si faceva un grosso parlare degli effetti speciali, dell'abuso, del fatto che comunque il cinema era stato consumato da questo fenomeno del massiccio uso del digitale. Forrest Gump è il film, anche se uno non lo direbbe, in quel periodo con un uso massivo di computer grafica e di intervento compositing digitale funzionale al film, forse uno dei pochi esempi di quanto comunque la tecnologia in quel senso è veramente d'aiuto alla narrazione e non è il contrario, cioè nel senso non è la narrazione in funzione degli effetti speciali. e Forrest Gump, per quanto possa non sembrare, fu un film costosissimo proprio perché c'è un uso incredibile, cioè dalla piuma, che è l'esempio più stupido, a tutti gli interventi digitali per le ricostruzioni storiche, anche i pezzi filmati televisivi, insomma veramente un lavorone della Madonna fecero con Forrest Gump. Tra l'altro fecero poi è importantissimo come film, lo sappiamo tutti, poi magari questo magari ce lo sto buttando lì, e magari il buon Roberto ce lo saprà dire meglio di chiunque altro, ma smonta il è fortemente critico con sull'America, sullo Stato americano, su come sul sogno americano e sulle modalità statunitensi, insomma, quelle tanto decantate nei film precedenti. Questo è un film che magari non te ne accorgi, ma va contro tutto questo in maniera assoluta. Certo. E ci insegna anche che a volte compri le azioni di una, insomma, di un'azienda che produce frutta, esatto, e diventi milionario così improvvisamente. Ma guarda, allora non è questa la sede, però io ho conosciuto Forrest Gump, ma il tenente Dan. Tenente Dan, ah, cosa? Come si chiama? Oddio. Sinise. Sinise. Gary Sinise, bravo. Gary Sinise. E lui, ti posso garantire che è un super appassionato e supporta molto le forze armate, per cui parlare degli Stati Uniti è sempre complesso. Alcune guerre, la guerra del Vietnam chiaramente è criticatissima per mille motivi di cui non parleremo oggi, quindi è vero, e ci sono comunque, è un paese complesso con molte ipocrisie e molte cose belle, quindi io non trago giudizi da queste cose. Diciamo che infatti poi lui è andato a farsi CSI New York, che è una bella porcata comunque, quindi. Vabbè, e lui fa, allora lui fa, ti posso dire, lui suona in una band e suona per dare tutti i proventi che fa con la band, li dà ai reduci di guerra, a quelli che sono malati o comunque hanno avuto problemi. Vabbè, anche in parte, sai, il ruolo stesso del tenente Dan, che era un reduce di guerra con... Basta che non siano di colore, però, perché ed è pure bravo, suona molto bene. Va bene, ragazzi, invece accendete il Commodore 64. Esatto, giusto Carlo, accendiamo il Commodore, ragazzi, 64, perché... Ma l'ho messo per me questa, perché... Vabbè, dai, che per te, questa mia, vale tutti, dai. Fantastica. Qui nella schermata del Commodore 64 c'era il logo Ghostbusters con le scritte sotto, la pallina tipo karaoke, la pallina karaoke, esatto, e tu dovevi cantare, vado a memoria, perché sì, era così, vabbè, del gioco Ghostbusters probabilmente ne abbiamo già parlato in qualche altro episodio di archeologia videoludica, che faceva comunque schifo. Sì, era quel gioco che avevi fatto tu, no? Avevi fatto gli sprite. Guarda che sarebbe stato meglio, forse. Vabbè, dai. Comunque, Ghostbuster, vabbè, sì, dobbiamo dire. L'unica cosa che possiamo dire è che in realtà questa colonna sonora osannata, bellissima, fantastica, di Ray Parker Jr., in realtà era un palese plagio, in realtà. Perché è identica a una canzone di qualche anno prima di Huey Lewis and the News, I Want a New Drug di Huey Lewis and the News, era praticamente copiatissima da questa canzone, che poi Elio ci fece anche la versione italiana, che si chiamava La Donna Nuda, la versione di Huey Lewis and the News di I Want a New Drug. Però vabbè, era assolutamente da ricordare, perché aveva un successo incredibile, l'abbiamo visto tutti, abbiamo cantato a tutti, c'era il videogioco, tutto quello tu che vogliamo. Tu c'hai 45 giri sicuro? Ah sì, ovvio, sì, ma secondo me Carlo è uno di quelli che ha incrociato i flussi nella sua vita. Esatto. Assolutamente. Poi lui ha, secondo me, ha, come si chiamano gli affari? Sì, mangia dischi, ce l'ha. No, il cosizzatore lì, come si chiama il coso col flusso? Sì, no, si chiamavano i cosi. Aspettiamo questo nuovo Ghostbusters che deve uscire. Lo zaino protonico. Sì. Esatto. Vabbè. Vabbè, non pensate, ma cosa hai pensato? Hai pensato a quello? Sì, ho pensato a una cosa innocua. La cosa che mi piaceva da bambino. Ma posso dire una cosa? Che a me il Ghostbusters visto al cinema da ragazzino mi faceva cagare. Non cagare, no, mi faceva schifo. No, fermo. No, mi è piaciuto tantissimo. Non cagare che mi faceva schifo, faceva cagare sotto, cioè mi faceva paura. Ah, beh, sì, faceva paura. Sì, è vero, sì. L'ho visto, ma non mi ricordo nulla perché riuscii a invitare una ragazza. Eccolo, Erpomicione, è arrivato Erpomicione. Ero distratto. Gatto Pomicione. Allora, prima di introdurre l'ultimo slot che abbiamo segnato, che poi ha un titolo particolare, voglio fare il mea culpa. Bravo. Perché bravo. Mi sono dimenticato, tra i mille titoli che mi sono dimenticato almeno due cose che dovevo assolutamente inserire e invece non l'ho fatto. E tu non ci hai fatto. Delle mele? No, quella è una cagata. No, mi sono dimenticato, Paradise. Ragazzi... Is this the jump to the left? And a step to the right. With your hands on your hips. Non mi credete. You mean your keys on the tight. Ok. The Rocky Horror Picture Show. Mi sono dimenticato. Vabbè, sì. The Rocky Horror Picture Show. Ma non ti sei dimenticato, Carlo? Carlo. Come una mazza. Cioè, non è che ti sei dimenticato, ne mancano 150 milioni. Cioè, vuoi dire. Ho capito, ma questo dovevo metterlo, ragazzi. Mi sono dimenticato di mettere Rocky Horror Picture Show. Cioè. Veramente devo pestarmi con la bottiglia sulle palle come è fatta Fazio. Io avrei fatto pure When I'm with you it's paradise. Oh. Insomma, vabbè, dai. Vabbè, e poi mi sono dimenticato anche The Little Shop of Horrors, la piccola bottega degli orrori, che anche quello secondo me è un capolavoro. Ti piacciono i musical a te, insomma. No, però non mi piacciono i musical, ma questi sì. I musical non mi piacciono. Superstar, no. Quello un po' troppo impegnativo, forse. Quello lo lasciamo ad Alex su MDB, Samba Radio, che ha fatto un episodio clamoroso su quello. No, ci ha fatto il crossover con Michela, tra l'altro. Ah, quindi. Insomma, vabbè, vai. Vabbè, comunque l'ultimo slot è una cosa che ho messo a parte perché l'ho chiamata la saga delle sigle, perché sono talmente tanti film che hanno in realtà come focus una cosa, la sua fil rouge. Sì, il suo fil rouge è la sigla. E di che sigla di saga delle sigle stiamo parlando? Beh, se non di, io ne metto una, il mio vedere. Nome è Bond, James Bond. Oh. Questa saga di 007. Aspetta, quando dici, quando sei, alza la mano quando stai per parlare, così abbasso, vai. Sto dicendo questa. Ma potevi anche lasciarla alta, tanto era e più non, bella se, non si sente quello che dici. Ma chi se ne... Questa è del 62, ragazzi. Sì, questa è del 62, ho messa come introduzione. In realtà poi ho tirato fuori quelle che mi ricordavo di più negli anni 70, anche se sono precedenti, perché in realtà i film di James Bond li vedevi alla televisione anche quando eri piccolo. Sì. Quindi comunque te li ricordavi. Sì. E soprattutto queste sigle, cioè, ragazzi. Cioè, lui ce non se ne ricordo. Erano film proprio sigle. Con un'intro precisa, cioè, come dice lui. La sigla, che di solito era una cosa più televisiva, no? Invece no. Portato no, qua c'era la sigla proprio del film. E la sigla del film, la prima che mi ricordo che è impressa nella mia testa, è quella di Goldfinger del 1964. Qui errore mio, non l'ho caricato, abbi pazienza. Vabbè, ma niente. L'altra sigla che mi ricordo assolutamente, qua stiamo parlando del grandissimo Paul McCartney, quando ha lasciato i Beatles e ha fatto il gruppo con i Wings, ha fatto Live and Let Die nel 73. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Vabbè. Ragazzi, cosa ricorda questa, ragazzi? Tutto, io, tutto di più. Nella mia epoca di ascolto dei CD, macchine, eccetera, per un anno intero avrò avuto il mio CD di tutte le colonne sonore di 007 e tutte le volte ero un film, più film, mentre andavo in macchina. Te li rivedevi e te li riscrivevi proprio? E tu li ascoltavi e ti vedevi il film, in poche parole. Qua era solo un brano del film, anche perché era, come dire, aveva questa sigla iniziale che però marcava il film, hai capito? Gli dava il marchio. Quando tu ascoltavi quella, è il film quello così. E qua è diventata una sequenza, perché come hai detto tu giustamente c'era il CD con tutte le sigle di 007, perché gli artisti facevano a gara a fare la colonna sonora, la sigla di 007, sì, ed erano sempre artistoni, e sempre i gruppi più famosi, i cantanti più famosi. E nel caso nostro, visto che noi ricordiamo gli anni 80, ricordiamo i film degli anni 80 di 007. Abbiamo quella fatta dai Duran Duran dell'85. Non ce l'hai? No, quelle arancioni non le ha. No, ho fatto, no, mi sono reso conto che la parte finale ho fatto un po' un casino. Aspetta un attimo, che sto cercando di vabbè, dai. Dai, beh, comunque. Cioè, io ho finito la lista di intervento, cioè nel senso per me non c'è più brani. C'era Beauty Kill dell'85 dei Duran Duran, e nell'87 dei Living Daylights, dell'87 degli Ha-Ha. Che erano due gruppi che negli anni 80 hanno spaccato, come si suol dire. Cioè, chi non ascoltava i Duran Duran e gli Aha negli anni 80? E la loro celebrazione è stata anche essere appunto inseriti, essere scelti per fare da sigla di 007, nei film di 007, che poi tutti i film di 007 hanno sempre avuto un cantante famoso, ma ci sono sigle che sono state ricordate di più, sigle che sono state ricordate di meno. Sicuramente quella che ho citato prima di Paul McCartney, che abbiamo appena sentito, è una delle più ricordate in assoluto. Però ricordiamo che recentemente c'è stata poi quella di Adele, che ha venduto 7 mila milioni di miliardi di copie in tutto il mondo, che è recente, insomma, è molto bella la canzone di Adele di 007. Vabbè, Simo, non le trovi, fa niente. Faremo il volume 2, faremo. No. Si fa con le compilation. Se mi date 5 minuti, provo a rimediare. Però voi intanto chiacchierate. Non so se. Quale ricordi tu, Roberto, in particolare di 007? No, quella che è rimasta anche a me più impressa è quella sicuramente di Paul McCartney, insomma, per ovvi motivi. Diciamo che Goldfinger di Shirley Bassey, anche se Simone non l'ha messa, è anche una di quelle che ricordo di più. No, certo, ma è difficile dimenticarlo, perché come hai detto c'era e c'è ancora la fila per poter partecipare in qualche maniera a 007. Una che avrei messo volentieri, allora occupiamo un po' di tempo per quelle che non riusciamo a dire, facciamo un po' di fuorisacco, diciamo così, sono quelle comunque importanti per me. Una era Amici miei, italiana chiaramente, ce n'è una versione cantata. Se vi capita, cercatela su YouTube, perché è molto bella. Appunto, narra di questi amici pagliacci che cercano di combattere la depressione con queste bravate o zingarate, come le chiamano loro. Quindi oltre chiaramente, vabbè, ai quattro madrigalisti moderni, alle simpatiche canzoni, sì, che fanno durante. Ma vaffanzoom. Vaffanzoom. Esatto. Grandissima. Sì, mi ricordo vagamente, devo dire, però mi sovviene adesso. Fantozzi non aveva anche lui una colonna sonora? Sì, c'era la canzone quella del mega direttore, una dei temi finali. Là. C'erano varie, sì, dei Fantozzi. Sì. Da da da da. Vedi, c'era anche lì, anche quella l'avremmo dovuta mettere. Comunque su 007, sebbene verrò linciato mediaticamente, dei film di 007 e quindi delle relative colonne sonore, ricordo in particolar modo quelle dove c'era Roger Moore, che per me è vero, lo sai, è stato il mio 007. Sì. C'era perché... quella di Grace Jones con Roger Moore. C'era. Anche sì, sì, c'è stato anche quello. Mentre invece, per esempio, ho rifiutato Timothy Dalton, Pierce Brosnan. Comunque, diciamo, Roger Moore è quello che mi è sempre piaciuto, e anche di Roger Moore ci sono stati un sacco di film, come anche il. Eh no, ma non sono stati film, erano telefilm, scusate. Beh, telefilm è la prossima puntata. Il santo, vuoi dire, certo, ma quello. Sì, sì. Simon Templar. Attenti a quei due. E comunque il film di prima di Adele era Skyfall, che era una bellissima canzone. Skyfall. Comunque 007. Tre, voglio dire, Sean Connery, Roger Moore e l'ultimo, come si chiama? Daniel Craig. Che secondo me... Daniel Craig, secondo me, tra l'altro, è il migliore in assoluto, però siamo off topic, quindi Daniel Craig, io non so perché, ma a me ricorda Putin ogni volta che lo vedo. Sì, ma allora, finalmente hanno azzeccato con questo dark, se vogliamo, perché lo sono Skyfall, ma anche gli altri hanno azzeccato in pieno il mood, cioè, qual è il difetto secondo me degli ultimi, che sono troppo lunghi come film, io non ho visto manco uno di questi nuovi, comunque, quindi non posso dire, vale la pena, anche se non sono mai stato un fan del genere, devo dire la verità, però ecco, come dicevo, Roger Moore, poi dopo per esempio, perché Connery forse lo è ancora più rappresentativo. Però, vabbè, insomma, dai, ragazzi, ognuno poi ha un po' anche i propri gusti. Comunque, vabbè. Però guarda, capita. Eccola qua. Dai, dai. Gold finger. Gold. 64 questo, okay. In effetti con questa voce satura, sì. Tra l'altro si è incantato il file, non so, è incantato il disco. No, ma la cosa puntina, sposta la puntina. No, tu mi devi spiegare come no, ma hai fatto così il file. No, te lo fotografo. Cioè. No, lo so, sono quelli taroccati che mettono in giro per far scoraggiare quelli che scaricano. Non è vero, non è taroccato. Non è vero, si è incantata la puntina. Diciamo. La puntina. E qua siamo a Beauty and Kill Duran Duran, ragazzi. Questa dicevi di Duran Duran, che io ho sempre detestato, devo dire la verità. Sì. No. Questo uso del campionatore fa un po' irritare. No, noi stavamo proprio sul piazzo, cioè. Ma sai quanti ragazzi state a vedere sto film solo perché c'era questa colonna sonora? C'era Simon Le Bon. Simon Le Bon, voglio sposare Simon Le Bon. Il film più brutto della storia del cinema. Mamma mia, mamma. Eppure la verità era tutto, cioè io avevo tutte le amiche, le cugine, le cose che strillavano come sentivano Simon Le Bon. Simon, ti amo! E io dicevo, ma perché c'è? Anche tu hai perso tutti i capelli perché te li sei strappati per Simon Le Bon. Ah no, io andate a lavorare, cioè. Forse dicevo qualcosa di meno gradevole, però insomma. Vabbè, tutte che si incazzano. Sono bravo, bravo, bravi, bei file che mi avete trovato, bravi. Pure questo, vabbè, andate a lavorare. Oh, vedi che facevo bene, ho finito qua la puntata. Lascia. Bravo. Va. C'avevo ragione. Quattro note, ragazzi. Bastano le prime quattro note. Eravamo già a posto. Come abbiamo già detto. Comunque, vogliamo parlare. Mi permette di dire una cosa? Sì. Torniamo agli italiani. Dario Argento, profondo rosso. Che di profondo rosso, mi strappo i capelli. Cazzo. Profondo rosso, porca miseria, che dimenticanza, vedi che lo sapevo. I goblin. Vabbè, stai buono, Davide, stai calmo. Come Davide? Da, oppure, allora squalo, come faceva lo squalo? Tutte Davide vocali. No, questo non era lo squalo, questo era lo squalo era tu e lo squalo ha dato l'ispirazione per quale videogioco? Lo squalo? No. non lo so. Baby shasha shatta tatta ta, baby shasha. No. Lo squalo ha dato ispirazione per il suono di Space Invaders. Space Invaders è ispirato al, proprio alla colonna sonora de, la colonna sonora di de, cosa de Space Invaders la so tutta, se vuoi te la canto, poi ti incanti pure tu. Io volevo ancora citare come colonne sonore quella mitica del film The Blues Brothers, chiaramente. Quindi Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown e troppi ce ne sarebbero. Quella della stangata, una stangata di Joplin. Scusa? La stangata. No, sì, no, l'ultimo non si è capito che hai detto. La stangata di Scott Joplin. Ah, ok. The Entertainer, che è molto famosa, c'è su un sacco di videogiochi, tra l'altro. Quella c'è, la trovi veramente dappertutto. Sì. Abbiamo parlato di Profondo Rosso, Arancia Meccanica. Un'altra che la ricordo poco. Io me la ricordo poco. Arancia Meccanica, pure io la velocità, in effetti. Però vabbè, 2001 di Odissea nello Spazio, le musiche di 2001. Che però erano musica classica che viene usata nel film, dai, quella non è fatta apposta, però sì, anche quella era da ricordare, in effetti. Dirty Dancing, che era molto bella. Vabbè, quello lì è come il tempo delle mele di prima, Dirty Dancing. Però, diciamo, ci sono alcuni film che non abbiamo volutamente voluto ricordare. Quello sì, altri che abbiamo dimenticato colpevolmente, come Profondo Rosso e Rocky Horror Picture Show, che secondo me dovevano assolutamente esserci e ce li siamo scordati. Ma recupereremo. Relativamente recupereremo, perché è dura, perché ragazzi, adesso le prossime puntate, quando le faremo non so quando, perché se dobbiamo aspettare il mio turno aspettiamo 4 puntate, a meno che qualcuno di voi vuole prendersene in carico. Dovremo parlare di tutte le colonne sonore dei telefilm, quindi delle serie TV e dei programmi TV televisivi, e poi quella finale sulle colonne sonore, le sigle dei cartoni animati, che anche lì sono ci sta mondi. Che ci sia una pausa tra una puntata di questo tipo e una sua tra virgolette simile, certo. No? Così certo. si spezza un po' la cosa. Assolutamente. Aspettiamo il tuo turno tranquillamente. Ma chi tocca adesso, a proposito, la settimana prossima? O a te o a Davide? Non toccava a te. Ok, non mi ricordo. Quindi vabbè, facciamo che tocca a Roberto. No, Roberto, però. Allora, voi già sapete il titolo che avevo proposto. Quindi la mia proposta è di una sfida al vertice. Oh, Madonna, sì, ho capito. E quindi lo so, sarà una cosa terrificante, perché io voglio parlare dei maestri, soprattutto cinematografici. Quindi faremo innanzitutto una sfida al vertice fra maestro Yoda e il maestro Miyagi. Ah, già, è vero. E poi parleremo anche degli altri. Insomma, è una scusa simpatica, spero, per facciamo la puntata di Davide. Guarda, voglio sentire parlare di questo. Guarda, io te devo dire la verità, lo dico e non lo dovrei dire, perché neanche io impazzisco per il tema, però devo dire la verità che invece poi in realtà troverò degli spunti interessanti, certo, in generale. Dai. Però ecco, prevalentemente perché se io devo scegliere uno dei due, ce l'ho uno da scegliere, perché l'altro proprio probabilmente abbiamo tutti lo stesso, però a me interessa trattare di alcuni personaggi, questo è il ok, infatti è anche un modo per non far il solito listone e basta, insomma, no, non che questa puntata, anzi, l'abbiamo apprezzata tanto e devo dire anzi che è divertente comunque ogni tanto fa questo tipo di carrellate, perché e comunque c'è un legame proprio emotivo a certe cose che ti fa comunque piacere di ripercorrere nel modo giusto, insomma. E quindi grazie a Carlo per questa bella puntata, e fra grazie a tutti, noi siamo 4, quindi fra un mese ritocca a lui. Sì, sì. Probabilmente proseguirà per questo cammino. Certo, ormai è iniziato, dobbiamo finirlo. Ci sono i telefilm e poi ci sono i cartoni animati. Allora cominciamo a prepararci. Esatto. Ma allora la prossima settimana invece, che è giovedì alle 21.30, ve lo ricordo sempre qui su runtimeradio.it, parleremo insomma del confronto fra i due maestri importanti. Poi la settimana dopo tocca a Davide. Davide, dai un teaser, dai un accenno. Sì, così. Quando il titolo è "Quando per divertirci bastava l'immaginazione". Ok, a volte postal market. A volte postal market. Diciamo che un postal market, sai, usa la testa. Eravamo bambini, non avevamo niente, ma riuscivamo comunque a divertirci tanto e fare 3000 cose lo stesso. Vero, è vero, soprattutto con l'UFO. Giochi della nostra infanzia. Con l'UFO Solar. Ancora l'UFO Solar era già qualcosa. Io parlo di giocare, fare le cose senza avere proprio niente. Prega, comanda, color. Io dicevo trasparente perché eri lo stronzo, perché è il colore tipico di noi longilinei. Comunque no, invece è una bella puntata, perché in realtà avrei diversi aneddoti. Invece la settimana successiva, ancora, quando toccherà a me, parleremo di qualcosa fatto di celluloide. E beh, ragazzi, i cellulari fatto di materiale cellularoide. Esatto. Cellularoide. Ma quello è il 5G. È il 5G. Okay. Va bene, ragazzi. Grazie a tutti per aver ascoltato questa ennesima puntata. Vi ricordo sempre di seguirci su www.runtimeradio.it, dove durante l'arco del giorno c'è tutto un palinsesto fisso. Se no, andate su Spreaker, cercate Runtime Radio e seguitevi tutti quanti i programmi di Runtime, che sono belli elencati. Tra l'altro, ci sono anche delle novità. Ce ne saranno ancora delle altre presto. Vi annuncio già che a giugno, durante le partite dell'Italia all'Europeo, ci sarà un grande ritorno di Runtime Radio, che non si chiamerà più Euroludica, ma si chiamerà Eurocalcio 2021. Il podcast, perché c'è l'Italia agli europei. Sì, esatto. E quindi noi faremo questo programma in diretta per seguire le partite dell'Italia, per tutti coloro ai quali delle partite d'Italia non gliene frega un cazzo, che è la cosa più importante, così già siete pronti e sapete di qual è il tenore. Chi ha mai ascoltato Euroludica nei precedenti europei, insomma, sa di che cosa stiamo parlando. Detto questo, sul sito di runtimeradio.it ricordatevi che c'è anche il bottoncino Runtime Anch'io, dove potete sostenere Runtime tramite una donazione singola su PayPal, oppure aderire al nostro Patreon, e questo ci permette comunque di sostenere tutte quante le spese del nostro network, che sembrano, ma in realtà ci sono, cioè, nel senso, è vero che non lo facciamo. Sì, ci sono. Sembra che ma in realtà le paga tutte Simone Pitti. Esatto. E adesso, insomma, grazie al vostro sostegno, ci stecchiamo, insomma, un po' le spese. Questo ci fa molto piacere. Quindi, se volete comunque dare un vostro supporto, anche come gesto di gradimento, anche come cortesia, insomma, ci fa veramente piacere. E sempre sul sito di runtimeradio.it c'è la Varghio Macchia, ossia potete scegliere in questa iniziativa del nostro speaker Leo Varghion, che Runtime ha sostenuto e sponsorizzato, potete scegliere di piantare un albero, ovviamente acquistare e far piantare un albero per la riforestazione del pianeta in vari posti, insomma, del mondo. E questo albero che voi poi avete fatto piantare vi verrà fotografato, cioè avrà il vostro nome, e ogni tanto vi daranno aggiornamenti sulla sua vita. È pure una cosa carina, insomma, tutto sommato, da fare. Detto questo, io ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino, Rutto Fotonico, perfetto, che torniamo la prossima settimana con quali dei due podcast? Non te lo ricordi, vabbè, lascia perdere. Ma sì, quell'archeologia video informatica ludica. Esatto. Vabbè, lasciamo perdere. Salutiamo e ringraziamo anche Carlo Sant'Agostino un'altra volta. Ciao. No, Roberto Tomaiuolo, grazie Roberto. Ciao, grazie a tutti. Ricordiamo Delenda Cartago, andatevelo a cercare. I primi due giorni facevo fatica, mi veniva l'ictus, ma adesso me lo sono imparato. Delenda Cartago, lo dico proprio con una disinvoltura. Ma non è una questione di memoria, è una questione di dirlo. Io mi impiccio la lingua, non so perché. Salutiamo Dildo Cartago. Sì, e salutiamo e ringraziamo. Mo cacciamo questo prima o poi anche Davide Gatti con il suo Survival Hacking. Tutti, grazie. Che Survival Hacking, che è sia podcast che canale YouTube. Quindi andate anche lì, iscrivetevi, attivate la campanella. Ma c'è manco più bisogno che lo dimo, perché praticamente ormai è lui che deve dirlo a noi. Esatto, è lui che deve fare pubblicità a noi. Insomma, giustamente. Esatto. Ciao, Davide, grazie. Ciao, grazie anche a voi, saluti. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito in chat e buonanotte a tutti.